Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Siamo pronti per dare il via al soundcheck numero 357 qui su Radio 24 dal Groovemaster Studio. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo e buonasera a Francesco Tromba. Ciao a tutti. Sei impegnatissimo, stai sempre con questo telefono in mano a smanettare. Che stai facendo? Sto lavorando. Stai lavorando? Sì, sì. Ma che bellezza, stai ringraziando per i messaggi, arrivano complimenti dalle fans. Sì, evidentemente è andata in onda di recente una replica di variazioni su tema e quindi mi stanno arrivando complimenti, domande. Ma anche per il soundcheck. Sì, anche per il soundcheck, assolutamente, no? Per tutto. Anzi, io ti ringrazio perché sei molto attivo sui social e stai facendo un bellissimo lavoro. Io invece mi sento un po' in colpa perché non sto andando a controllare più, non ho il tempo di farlo, Tromba, troppe cose. Non ho il tempo di andare a vedere le mail del nostro soundcheck, se ci sono critiche o consigli o complimenti, non so niente. Dammi a me le credenziali della mail, vedrò di riuscire a orientarmi. Ti darò anche questa responsabilità, senz'altro, ma veniamo alla puntata di questa sera perché il tempo è tiranno, non abbiamo tanto tempo oggi, soltanto un'ora per il soundcheck, un'ora che vorrei sfruttare in maniera impeccabile per presentarvi alcune produzioni discografiche italiane che a me sono piaciute tanto. Sì, produzioni italiane che spesso in realtà non vengono curate, promosse a dovere, perché appunto abbiamo tantissimi musicisti di jazz italiani che sono assolutamente meritevoli anche a livello internazionale di essere promossi. Allora, direi di dare il via a questo punto con la voce calda, educata e in alcuni momenti anche sensuale di una brava cantante italiana, si chiama Chiara Pancaldi. Vorrei iniziare con Chiara Pancaldi perché questa sera, anzi fra pochissimo, Chiara Pancaldi sarà in concerto al Senza Tempo Jazz Club di Avellino e poi si sposterà domani a Vienna al Porgy & Bess e come si chiama questo posto? A Monaco di Baviera il 29 Uterfart. Sarà impronunciabile. Sarà impronunciabile. Tedesco, comunque si sposta anche a Monaco, tanto per farvi capire che la nostra Chiara Pancaldi forse è quasi più famosa all'estero che in Italia. Sì, in effetti in Italia non la troveremo facilmente perché evidentemente ha molti più contatti ed è molto più apprezzata all'estero, come capita spesso ad artisti italiani. E infatti ha anche la fortuna di girare con dei campioni di musica come Cyrus Chestnut, che è protagonista anche dell'album di Chiara Pancaldi, e al basso gli amici che andranno a seguirla dal vivo si ritroveranno un altro campione della nuova generazione che è Daryl Hall. Ma veniamo a noi, miei cari amici, andiamo subito ad ascoltare questa versione di Wouldn't It Be Lovely per Chiara Pancaldi, un brano che faceva parte di un musical famosissimo come My Fair Lady. Ci sono tante storie su My Fair Lady, ma va bene, magari poi dedicheremo una puntata del nostro soundcheck ai musical. Sì, niente male, sarebbe una gran puntata. Eccola qui, Chiara Pancaldi al soundcheck. Dalla voce di Chiara Pancaldi, assolutamente jazz qui al soundcheck di Radio 24, a quella di Greta Panettieri, altra voce italiana affidabile, mia amica, bravissima autrice di testi, appare discograficamente con un nuovo album, ormai da un paio di settimane sta imperversando anche nella classifica jazz di iTunes, album intitolato Shattered, ovvero sgretolata, con una bellissima copertina di Greta che viene affiancata in questa produzione da bravissimi musicisti italiani. Beh, come al solito, alla fine. Ci sono Alfonso De Idda, che è anche un membro della tua band. Certo, anche Max Ionata, membro della mia band, ha chiamato tutti i miei musicisti. Ti ha rubato i musicisti. sì, a parte Rocky Salento, che invece è un musicista che ormai è legato anima e core a Greta Panettieri. Chi sarebbe Rocky Salento? Andrea Sammartino. Ah, non lo conoscevo. Pianista, tastierista, arrangiatore, compositore, ma è anche il fidanzato di Greta Panettieri. Panettieri. Purtroppo. Fortunato. Purtroppo, sì, fortunato lui. Purtroppo è il fidanzato di Greta Panettieri. Naturalmente sto scherzando, li saluto perché sono dei carissimi amici e voglio fare i complimenti qui su Radio 24 per una bellissima produzione. Ancora una volta una produzione che suona molto bene. Greta si lascia andare, canta tutto quello che le piace e lo fa anche con il sorriso sulle labbra, perché ci sono dei brani dove si accoppia musicalmente, quindi attenzione San Martino, ha detto si accoppia musicalmente per esempio con Greg, di Greg e Lillo. Ah, pensa, ancora non l'ho sentito questa traccia, ma me la devi far ascoltare. Però io non ho scelto questa. No? No, ho scelto Pensamento Feliz, perché Greta naturalmente canta anche molto bene in portoghese, in brasiliano, e questa è una composizione originale, Pensamento Feliz, Greta Panettieri. Al soundcheck di Radio 24. Ti sono piaciuto? Bravo. Soundcheck. Il suono della musica. Avrete sicuramente riconosciuto Quando Chiove di Pino Daniele nella versione pianistica di Vittorio Mezza, che realizza con il suo trio un album intitolato Napoli's Jazz Songs, ovvero repertorio napoletano rivisitato in chiave jazz. Devo dire, non un'idea originalissima. No, però è un'idea però che funziona, sì. Evidentemente funziona, perché per esempio Massimo Ranieri ha cantato il repertorio napoletano in chiave jazz e lo ha fatto anche Stefano Bollani ultimamente con una tournée poi importantissima che lo ha portato in giro per l'Italia e per l'Europa. Sì, infatti funziona soprattutto anche dal punto di vista internazionale, nel senso che la musica napoletana è famosa anche in tutto il mondo. Ma lo dice a me che per anni ho lavorato nell'orchestra italiana di Renzo Arbore, che ha il merito di aver riportato in auge la canzone classica napoletana. In tutto il mondo, soprattutto. In tutto il mondo, cioè sempre, anche in Cina, sempre in avanti. Giappone. No, bisogna dirla la verità. Sì, le cose stanno così. No, probabilmente se Renzo non avesse fatto questo recupero, ancora oggi staremmo lì a discutere se la musica napoletana è una cosa che appartiene al passato o da cartolina. Sì, in alcuni casi ancora viene però snobbata, perché tantissimi artisti italiani in realtà la reputano un pochettino, la mettono un pochettino in un angolo, soprattutto anche alcune radio. Vuoi sapere perché? Perché? Perché le melodie napoletane sono difficili da cantare. Quindi bisogna cantarle con il cuore in mano e poi con la pronuncia giusta. Sì, e poi anche sono molto teatrali. A me piace, ma io non potrei mai cantare quel repertorio perché non sono napoletano, ma soprattutto non ho la pronuncia giusta. E poi niente, le devi proprio sentire certe cose. Forse se ti trasferisci a Napoli per dovrei vivere a Napoli, stare a Napoli un po' di più. Comunque, da Vittorio Mezza, napoletano che si cimenta nel repertorio della sua città, passiamo invece, facciamo praticamente un viaggio di pochi chilometri e ci spostiamo a Salerno, che io considero da sempre un po' la New Orleans italiana per tanti motivi, ma soprattutto perché da Salerno ormai negli ultimi anni sono venuti fuori dei musicisti eccezionali, e in particolare c'è una famiglia alla quale io sono legato, che è la famiglia De Idda, alla quale abbiamo dedicato anche una puntata di variazioni su tema che andrà in onda credo a gennaio. Sì, puntata assolutamente commovente. Non potevo non dedicare questa puntata ai fratelli De Idda, perché è una famiglia di musicisti eccellenti con una mamma strepitosa. Sì, e io ti devo ringraziare perché tra i fratelli De Idda ancora non conoscevo Sandro, che è veramente fantastico, ha un sound e una poetica quando suona il sassofono veramente impressionanti, una delicatezza e un sentimento fantastici. E infatti incontriamo Sandro De Idda con il trio di Salerno, ovvero Aldo Vigorito al contrabbasso e Guglielmo Guglielmi al pianoforte, che viene anche lui da una famiglia di musicisti. Il brano che abbiamo scelto è una composizione di Fabrizio De André e si intitola Amore che vieni, amore che vai. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Voglio dirti la verità, Francesco, non sono mai stato un grande sostenitore del connubio del folklore italiano con il jazz o la musica classica con il jazz. No, non mi è mai piaciuto tantissimo. Non mi sono mai piaciute tantissimo queste operazioni. Però questo disco di Nico Morelli, intitolato, tra l'altro anche il titolo è molto carino, Unforgettable, Unforgettable, quindi un po' fra col Unforgettable folk. Di col folk. Ecco, questo è Unforgettable 2, perché c'è stato già un precedente album con il quale il bravissimo pianista italiano, ma ormai residente a Parigi da tanti anni, Nico Morelli, si cimenta nel repertorio classico della Taranta, della Tarantella, ma più della musica pugliese in generale, in una chiave con una visione assolutamente jazz contemporanea. Io lo trovo un album fantastico, ho anche chiamato Nico Morelli per fargli i complimenti e spero che prestissimo avrò occasione di incontrare questo bravissimo pianista italiano che ormai, ahimè, risiede a Parigi. Buon per lui però. Beh, se alla fine si trova bene, buon per lui veramente. Sì, direi di chiudere allora l'appuntamento del nostro soundcheck dopo questa versione di Sta Strada, proprio dalla tradizione del Salento, con furore, con il sound di Nico Morelli, con un'altra band, un quartetto eccezionale italiano. Anche questo ci riporta nella tradizione della musica italiana. Alla fine è andata così la puntata. Eh sì, era dedicata ai jazzisti italiani. Italiani che hanno suonato la musica italiana. Sì, perché noi veniamo da tradizione italiana. Ok, allora, vuoi dire qualcosa tu del Solis String Quartet? Sì, loro sono napoletani e si sono formati in conservatorio, cioè si sono conosciuti al conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. Sono due violini, Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio, Gerardo Morrone alla viola e invece Antonio Di Francia al contrabbasso. Ecco, in questo album c'è anche la partecipazione di Luca Aquino alla tromba. E quindi noi con il Solis String Quartet vi salutiamo, ringraziamo tutti voi per sostenere con affetto il nostro programma e ci rivediamo in televisione mercoledì alle 21:15 su Rai 5 e ci risentiamo invece su questi schermi qui su Radio 24 sabato prossimo dalle 19:15. Giusto? Ho sbagliato? Esatto, promosso. Grazie a Francesco Tromba, grazie a tutti voi.